Allora, siamo rientrati in diretta qua dal microfono di Città del Capro e del Metropolitana con questa puntata speciale di 451 frammenti sonori e altri suoni dedicata al Kraut Rock, seconda parte, e dunque anni 70 e 80 la prima oretta. La seconda oretta siamo già anni 90, anche se abbiamo l'aggancio con gli anni 80 con questi Cabaret Voltaire. Gruppo di Sheffield, patria della Warp. Conseguente poi a tutta la scena Sheffield, che forse è stata più importante di quella londinese per quanto riguarda l'industria e la musica elettronica. La Human League, assolutamente, viceversa. Viceversa, che poi diventano sì, sì, un pochino più pop, sì, sì, però. Sì. E per cui niente, insomma, siamo qua per questa seconda parte. Ricordo un attimo i contatti: 348-7649-289 per gli sms, e il numero di telefono in diretta è 051-2419-10. Ancora questa seconda parte, che arriveremo sicuramente fino agli anni zero, perché il materiale recente è sicuramente molto e nutrito. Sì, ricordiamo anche per coloro che si fossero messi in ascolto adesso che la prima parte che abbiamo mandato due settimane fa in onda, sempre qua da Radio Città del Capo, la potete riascoltare sul blog 451 frammenti sonori .noblogs.org, e salutiamo di nuovo Gino, che è presente sempre con noi, sì, anche se non c'è fisicamente, una sorta di spirito che aleggia. Che aleggia su di noi. Bene, allora adesso intanto è finito questo piccolo stacco di Cabaret Voltaire, noi invece entriamo in un qualcosa un po' di più spaziale. Beh sì, l'altra volta abbiamo citato Stereolab, l'abbiamo anche messi, forse la cosa più cosmica, più krauta, è stata fatta insieme a Nursery Tune, ma perché la testa di Steve Stapleton è sempre stata dentro gli anni 70 cosmici, quei cosmici prima appunto citati ad esempio attraverso Dom, magari quelli minori, quelli veramente più astratti, e qua veramente sembra di ascoltare la metronomia di Noi, con una sonorità che va a incrociare poi Pierre Henry con sonettini concreti che appunto Stapleton e Nursery Tune cura in maniera egregia, e Stereolab che creano una sorta appunto di viaggio appunto dentro quella matrice tra primi transistor anni 50 e appunto collegamenti con i cosmici anni 70. Siamo intorno alla fine degli anni 90, Headphone eccetera eccetera, titolo lunghissimo nello stile dei Nursery Tune, che ricorda appunto il periodo dei cosmici. Vero e proprio condensato e riassunto di tutto il crowd rock, questo c'è sia la metronomica, brano dei Can, i Noi, lo spazialità dei Tangerine Dream, di c'è tutto. Dei chitarristi, dei cosmici, tutto, cioè, impressionante. Sì. No, è un cosmo dei cosmici, giocando un po' con le parole. Sì, una sintesi. Tra l'altro, disco poco conosciuto sia dalla parte di Stereolab che dalla parte di Nursery Tune, che è una cosa. Io l'ho conosciuto attraverso Spectrum, Sonic Boom, che è uno dei suoi dischi preferiti di sempre, uno dei viaggi cosmici più belli fatti. E Spectrum è sicuramente un personaggio che ha avuto la sua influenza krauta bella bella. Però qua invece parliamo di un'altra faccenda, cioè di Andrew Weatherall, il produttore che ha creato Screamedelica, perché Primal Scream non avrebbe mai fatto un disco del genere senza Weatherall, un capolavoro totale. E poi da solo il suo progetto Warp Records, naturalmente Sabres of Paradise. Questo è il terzo disco del 94 e questa è Chapel Street Market, né 9 AM. Yeah. siamo già verso la fine del secolo. Sono i Turoko Corot, incidevano Mute anche loro, naturalmente. Queste Cars, loro sono tedeschi, si sente chiaramente. Eh sì, anche qua si sente tanto noi, tanta cosmica, sì, dentro una scatola, quasi, sì, miniaturizzata. Quasi un po' compressa, un po' sfumata, tutto più delicato, però estremamente tedesco. Ma infatti la patria, diciamo, del krautrock ha continuato a sfornare poi in tutti questi anni, praticamente senza soluzione di continuità, qualcuno che comunque seguiva le tracce dei padri, chiamiamoli così. E anche nell'ultima parte sentiremo degli autori proprio contemporanei tedeschi che sono assolutamente in linea. Nipoti. Allora, facciamo l'ultima puntatina sugli anni 90 e poi passeremo ad altro. Beh, qui siamo agli Orbital. Già il nome è un riferimento chiarissimo alla Rave Generation, visto che... gli anni 90 sono stati poi il recupero degli anni 70, di certi anni 70, soprattutto di quelli cosmici. Il rave poi è stato il compimento forse di molti dei sogni dei cosmici. Un rito cosmico un pochino più selvaggio, magari meno freak, un pochino più tecnologico, però fondamentalmente era quello. Orbital infatti era poi il riferimento ai rave, in quanto il riferimento era la periferia di Londra che circondava la Orbital, e l'altro non è che la tangenziale di Londra. Però con tutto, insomma, anche il misticismo che si porta dietro la faccenda. E qui siamo di fronte a un brano assolutamente anomalo per gli Orbital, pianoforte, un po' in loop, quindi un qualcosa che potrebbe essere un set del mattino. Ma sembra addirittura delle cose minimaliste, sì. Ricorda moltissimo certi esperimenti di Steve Reich, ad esempio degli anni 70. Infatti. C'è un legame. C'è un legame chiarissimo. Loro non sono assolutamente un gruppo tecno, come si è stato interpretato. Infatti. Non lo sono per nulla. E qua lo dimostrano in maniera abbastanza evidente. Bene, questo è da Snivelization del 94. Ascoltiamo Kein Trinkwasser, un titolo in tedesco. Thank you. dobbiamo parlarci, perché dobbiamo rompere un po' questa atmosfera un po' mielosa, perché adesso rompiamo veramente mielosa ti sembra un po' troppo gentile, allora tu dici prepariamo il terreno per la devastazione. Cambiamo completamente regime sonoro e andiamo da quelli che sono considerati forse in assoluto il gruppo più oltranzista da un certo punto di vista sonoro nell'elettronica, diciamo degli ultimi 10-15 anni, sì, Outtake, insieme a Pansonic. Però veramente dei scarnificatori. Secondo me poi negli anni 90, perché adesso affronteremo un disco degli anni 90, sì, perché poi la produzione è andata avanti fino ad ora, continuano a produrre, infatti, anche se io avrei un po' di discussione da aprire sugli ultimi dischi degli Otecre, perché non sono brillanti come nel passato, però secondo me la grande forza negli anni 90 era quella di anticipare nelle sonorità tutta una devastazione che poi ha attraversato gli anni zero, in termini proprio epocali, storici, mondiali, lo facevano già intravedere attraverso gli anni 90, che era un periodo storico un po' strano, che forse bisognerebbe rileggere e ristudiare a distanza. C'è da dire che infatti in anni in cui sembrava veramente la fine della storia, la pace generale, Outtake insieme a pochi altri, rompevano questa situazione, questa peace and love, questo miele forse di cui parlava questo Jerry. Miele che parlava Jerry, effettivamente erano carini dagli gli Orbital. Beh, d'altronde se uno valuta poi il rave, non era mica questa cosa così devastante come raccontavano, anzi la sponda ibizenca se ne va da Ibiza dopo, l'ecstasy. Poi è una droga anche molto dolce, no? Tra virgolette, no? Poi dopo diventa, quando viene tagliata male, diventa un'altra storia, però. I New Order stessi fanno il disco ibizenco, quindi fanno Republic e dopo essere stati un mese e mezzo a Ibiza e si sente. Per cui adesso noi rompiamo appunto l'atmosfera con gli Otecre e poi appunto, come diceva Eliseo, ritorniamo indietro agli ER, che sono appunto questa anticipazione che lui diceva del 98, per cui siamo comunque lì a cavallo. Siamo a cavallo, il periodo è quello. We'll be right back. Qua siamo rientrati con un mix splendidamente realizzato da chi? da Jerry. E abbiamo inserito un'altra formazione importantissima degli anni 90, che ancora adesso continua a fare delle ottime cose, l'Experimental Taldo Research. Questo è un disco del 1998, Millennium, che già il nome è tutto un programma, insomma, apriva chiaramente le porte al nuovo anno zero, al nuovo millennio. Un disco che mixa elementi ovviamente ricorrenti stasera legati alla cosmica, ma una dimensione sonora estremamente sperimentale legata anche ad aspetti rumoristi che ritroveremo anche in parte in certi progetti che affronteremo successivamente negli anni zero, perché questo è un aspetto che ritroveremo anche in altre cose che proporremo più avanti. Beh, tra i progetti di rottura dopo IR si stava bene questo Aphex, un po' sui generis. Sui generis in quanto singolo promozionale da 1:20 uscito in Francia. E quindi una roba assolutamente delirante. Io voglio ricordare la cosa di Aphex. Madonna gli chiese un remix. Lui disse sì, te lo faccio il remix, però inserisco al posto della tua voce la voce dei maiali, il grugnito dei maiali. Madonna chiaramente ha rifiutato. Questo è Aphex Twin. Bene. Un signore che vive in Cornovaglia con un carro armato in giardino, credo che non sia particolarmente trattabile. Meno male, direi, no? Sì, e tra anche l'altro, smesso di fare grande dignità, anche, grande dignità, sì. ha chiuso, ha capito che era finita la sua vena creativa, il suo progetto, e fa qualcosina delle DJ set, delle ristampe. Suona mezzo alle foreste. Però secondo me grande dignità in questi tempi dove si vuole continuare a procrastinare qualcosa che non c'è più e ci sono tante mummie. E dove lui potrebbe permettersi, potrebbe campare a vita ormai, invece ha deciso per una dignità personale di chiudere. Sì, ma fossero così tutti i progetti, magari. Poi magari se riapri, secondo me con senso, perché effettivamente sta fermo quasi 10 anni. Sì. E dal cosmo rotto, si potrebbe dire, un cosmo andata male di Aphex a un altro che prende versi veramente acidi, ecco, forse il cosmo fine anni 90, quel sogno rave si sta trasformando veramente in incubo. L'ecstasy incomincia a essere tagliato male, come spiega Simon Reynolds nello splendido libro dedicato proprio a rave, e i ritmi si incattiviscono, c'è una sorta di appunto chiusura anche rispetto ai grandi sogni degli anni 90, un po' mielosi forse in questo senso, sicuramente. Beh, Jerry ha ragione. E Mont Vernon Arts Lab riprendono proprio quel verso acido, quello che si ritrovavano in certe cosmicità, tipo certi Asha Temple o certi noi magari un po' più incattiviti, e andiamo appunto a prendere in questo versante del 2001, apriamo gli anni zero e poi il 2001, anno non a caso, eh. Allora, siamo quasi in prossimità del secondo stacco del GR per questa puntata speciale di Altri Suoni 451 frammenti sonori dedicata al crowd rock, e siamo ormai arrivati in pieni anni zero, 2005-2004, con questo che è uno dei maestri assoluti della musica elettronica contemporanea, assolutamente riconosciuto, Fernando Corona, in arte Murkoff, messicano, che ormai un artista veramente, adesso a prescindere dal fatto musicale, un artista multimediale, anche perché multimediale lui importantissimo. Quando si presenta dal vivo si fa sempre accompagnare da qualche video artista, per fortuna non ci pensa lui, ma giustamente si fa accompagnare da qualcuno che ne sa, per cui vengono sempre degli spettacoli multimediali assolutamente da non perdere, perché se vi capita ricordatevi che Murkoff è da vedere oltre che da ascoltare. Tra l'altro Murkoff è uno dei pochi che riesce ancora a usare i campioni in questi anni, sì, dove il campionamento appunto è ascrivibile soprattutto alla musica degli anni 90, fatta appunto col campionatore, e lui riesce magicamente ancora, pur nella riconoscibilità dell'utilizzo dei campioni, a essere decisamente poetico, a essere originale, espressivo e originale soprattutto, non ricordare appunto qualcosa, come dire, esatto, i cloni dei cloni. Non citazione, ma utilizzo vero dei suoni. Sì. E il più cosmico è, non a caso, appunto un album che si chiama Cosmos. Cosmos, quindi. E questo è Cometa. Eh beh, ci quindi siamo proprio. Per cui con questo, a questo punto, arriviamo al GR di Mezzanotte e Mezza, noi ci risentiamo dopo la lunga pausa per l'ultima parte, tutta dedicata alla contemporaneità, agli ultimi 2 o 3 anni.